cosa importante è che io so di aver agito bene. È finita nella solita panza del politico in cravatta. In Lombardia Formigoni vuole andare al voto prima di Natale. A Capodanno invece vuole andare alle Seychelles con i Re Magi.